t'ho detto sì. Tu m'hai baciato e t'ho detto sì. Ma fin da principio non ho creduto di trovare in te l'amore. Ero soltanto la ragazza dell'ombrellone accanto. Ero soltanto ¡Gracias!